Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Meis. Questa sera voglio dare subito il benvenuto al nostro ospite, Alessandra Raffone. Buonasera. Buonasera a voi tutti. Professore di statistica all'Università Roma 3 e anche alla Sapienza, sempre Roma, membro del Comitato Scientifico TTS Italia, Associazione Italiana per la Telematica dei Trasporti e la Sicurezza, ed è responsabile innovazione e sviluppo presso il gruppo Almaviva, che è una società piuttosto grossa, anzi molto grossa, che fornisce soluzioni nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, che ha tra l'altro un focus proprio dedicato al tema delle smart cities. Dunque Raffone, voi sviluppate appunto soluzioni tecnologiche un po' a 360 gradi, avete software, non so, dedicati alla gestione della mobilità integrata, al monitoraggio dei consumi energetici, e chi più ne ha più ne metta. Ma ci sono due servizi con una forte impronta sociale, che è il motivo per cui lei è qui questa sera e di cui vorrei che parlassimo. Servizi rivolti a persone a ridotta mobilità. Il primo riguarda le ferrovie. Sì, il sistema si chiama Rete Blu e consente di pianificare e gestire tutti i servizi connessi a un viaggio, è integrata con tutti i sistemi di vendita delle singole imprese ferroviarie, perché chiaramente chi un... Ecco, ma concretamente che cosa significa? Diciamo che io sono in carrozzina e devo andare a Roma, abito in un paese vicino a Varese, cosa uso? Lo smartphone, uso il computer, come sì, funziona la cosa? Allora, lei può usare sia un computer che uno smartphone, si prenota il suo viaggio. Sì. E il passeggero a ridotta mobilità viene quindi individuato e viene accolto alla stazione. Rete Ferroviaria Italiana dà tutti gli avvisi relativi al viaggio, quindi all'andamento del treno, orario teorico effettivo, eventuali ritardi, binario previsto effettivo. Invece l'impresa ferroviaria che effettua il trasporto sa esattamente che c'è un passeggero a ridotta mobilità, quindi preventivamente possono inviare anche eventuali segnalazioni su eventuali anormalità come treno soppresso, posto mancante, bagno guasto, eccetera, in modo da garantire un servizio consono al passeggero. Il passeggero nello stesso tempo a ridotta mobilità ha è costantemente informato via rete mobile, quindi tramite un SMS o un'email, su tutto quello che è il suo viaggio, su chi lo accompagnerò, ed è accompagnato, possiamo dire, end to end nel suo viaggio. Dunque, l'altro esempio mi sembrava molto interessante, invece di un software che avete sviluppato per garantire, diciamo, l'accessibilità sempre a persone a ridotta mobilità ai mondiali di sci della Val di Fiemme. Allora, questa è una soluzione molto bella, perché con due semplici clic attraverso uno smartphone o un tablet, una persona che si trova in un contesto all'aperto viene individuata attraverso il GPS, dice io voglio andare da A a B, e la soluzione su smartphone gli mostra non solo la mappa, ma gli calcola anche il migliore percorso in funzione, per esempio, delle barriere architettoniche esistenti oppure no, in funzione delle pendenze, perché chi chiaramente certo. Una sedia a rotelle non può sopportare una pendenza di più del 10%, e nello stesso tempo gli fornisce informazioni su tutti i servizi che sono lungo il suo percorso. C'è da dire che questa poi è già stata predisposta per poter funzionare anche al chiuso, dove il GPS, per esempio in un museo dove il GPS, il satellite, non arriva all'interno di un grande spazio chiuso. Esatto, oppure basti pensare che so, adesso ci sarà il grande evento dell'Expo 2015, certo, oppure le fiere, certo, grandi centri commerciali, no? Quindi insomma un navigatore un po' speciale che dà delle indicazioni tenendo conto della capacità di mobilità della sì. persona. Ecco, questi sono due esempi importanti per il fatto che hanno appunto un risvolto sociale, un'attenzione verso i disabili, ma probabilmente testimoniano anche di un filone, no? che si può aprire. Questa è una delle grandi forze, diciamo, della tecnologia per come è oggi, quello di poter veramente raggiungere tanti pubblici, chiamiamoli così, con delle esigenze molto, molto particolari. Per esempio le categorie più deboli, che sono gli anziani, noi abbiamo la popolazione più anziana. Ecco, perché lei prima parlava delle pendenze, parlavamo delle carrozzine, sì. Però a me veniva subito in mente mia nonna, insomma, sì. che infatti, anche se non è in carrozzina. Esatto, anche soluzioni molto semplici da usare, perché poi le persone anziane hanno anche il problema che non sono così abituati spesso, a usare certo, smart. Certo. Quindi, comunque su questo ci sono degli esperimenti, ma guardi, adesso gliela butto lì. Intanto, per esempio, ci sono i bambini, anche le carrozzine, i passeggini, piuttosto che un bambino se deve fare anche un giro turistico in una città d'arte, alcuni percorsi magari possono essere un po' troppo impegnativi, anche per un genitore che invece ha 30 o 40 anni, ma che si deve portare 10 kg di pupo in spalla. O un'altra cosa che mi viene in mente, per paradosso, dei percorsi per sportivi, invece per chi va in cerca magari di un percorso un po' più difficile. Certo, per esempio per i bambini, allora io ho visto in Italia magari i bambini non vengono così abituati a imparare ad apprezzare da piccoli l'arte, perché forse non gliela si spiega bene. Attraverso anche queste soluzioni si può fare un percorso innovativo dedicato ai bambini con dei giochi a seguire per vedere quanto hanno capito, ad esempio, di una visita a un museo, di una visita a una mostra. Gli sportivi, come dice bene lei, hanno bisogno di un allenamento e quindi potrebbero lì sarebbe pensare, no? Esatto, a un algoritmo all'inverso che gli complica un po' la vita. Esatto, la pendenza del 10%, la pendenza del 60%. Insomma, ma scherziamo, ma poi alla fine la possibilità di rispondere a delle esigenze estremamente precise, a volte anche del tutto contrastanti, come stavamo dicendo in questo momento, è una delle grandi linee, credo, di sviluppo di questa partita che chiamiamo Smart City. Grazie Alessandra Raffone. Grazie e buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.